Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Sono le 11:10. Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Vogliamo ai titoli del nostro sommario. Pancia in dentro e petto in fuori. Parliamo di muscoli. Medicine complementari, una campagna dell'Istituto Superiore di Sanità. Un coach per amico. Madre Natura ce li fornisce in numero uguale, ma c'è chi li fa fruttare di più e chi di meno. Non sono talenti, ma muscoli. C'è chi li allena, chi li tiene a riposo, chi li usa tutti, chi solo alcuni, chi li mostra e chi li nasconde. Oggi però tutti possono avere indicazione per prendersene cura e per mantenerli sani e forti. In studio due esperti, è tornato a trovarci il dottor Gianluca Melegati, responsabile del Centro di Riabilitazione Sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta. Quanti muscoli vede lei? Parecchi. Belli fisicati, come si dice. Il dottor Ezio Gianni, che è medico dello sport, specialista in scienze dell'alimentazione e responsabile della pallacanestro Cantù. Dottor Gianni, iniziamo subito con lei. Definiamo le competenze. Lei ci aiuterà a capire come funzionano i muscoli e di che cosa hanno bisogno per continuare a funzionare bene. Facciamo subito un esempio, così ci capiamo meglio. Buongiorno, innanzitutto un esempio. I muscoli sono sicuramente dotati di una struttura. Sì. Ci sono le fibre muscolari, ci sono delle fibre lente, delle fibre veloci, che richiederanno, poi vedremo successivamente, un allenamento specifico per l'una e per l'altro. E questa noi la definiamo la struttura, che sì, può essere paragonata ha un motore, cioè un motore ha i bulloni, le guarnizioni, i pistoni e così via. E così i muscoli hanno le fibre muscolari. Se noi vogliamo avere un efficiente organismo, dobbiamo avere un'efficienza strutturale, cioè non dobbiamo permettere che le nostre fibre vadano incontro ad usura o vadano incontro a lesioni o comunque si riducano di numero. Per questo noi dobbiamo, attraverso un corretto allenamento e una corretta alimentazione, provvedere a che questa struttura rimanga tale, rimanga efficiente. Quindi, insomma, dottor Gianni, lei ci aiuterà a mantenere i nostri muscoli perfettamente funzionanti? Belli. Io cercherò di spiegare come si fa a mantenere una struttura adeguata e quale carburante metterci ci vuole per avere delle prestazioni poi adeguate alle nostre esigenze. Invece, dottor Melegati, con lei ci occuperemo di muscoli doloranti, quindi contratture, stiramenti e strappi, ma io direi che sarebbe meglio non affidarle solo le emergenze, perché anche per i muscoli meglio prevenire che curare, perché poi sono dolori. Allora io vorrei che lei ci aiutasse ad individuare quei tranelli, che quelle zone a rischio, quindi suggerendoci consigli e trucchi per evitare incidenti, acciacchi e anche perdite di tono. Certo, lei ha ricordato delle patologie, le classiche patologie del muscolo, vale a dire contrattura, stiramento e strappo, ma ricordiamoci che il dolore muscolare può provenire anche da altro, per esempio dai crampi oppure dalla fatica stessa. E una cosa importante da dire è che i problemi muscolari non sono solamente problemi degli sportivi, ma anche delle persone normali, anzi direi che sono soprattutto delle persone normali. Non dimentichiamo che patologie come il mal di schiena oppure la cervicale sono patologie tensive, cioè che provengono da un dolore muscolare. Così come non dimentichiamo che non è solo lo sportivo, lo sprinter o il giocatore di rugby o di calcio che si lesiona un muscolo, ma anche la persona che gioca a tennis di 50 anni che a seguito di uno scatto durante una partita molto tranquilla di tennis si provoca quella lesione al polpaccio così famosa proprio nel tennis. Quindi non è una puntata dedicata esclusivamente a chi pratica attività sportiva. I muscoli ce li abbiamo tutti, anche chi fa finta di non saperlo non li guarda, non se ne cura, e i muscoli con gli anni perdono tono, e questa è una cosa inevitabile, è un rischio che corriamo volentieri perché vuol dire che gli anni passano. Certo. E ben vengano. Ma dottor Melegati, anche questo è un problema che io vorrei affrontare con voi, proprio questa perdita di tono muscolare che è poi un rischio, pensiamo agli anziani. Certo, intanto diciamo che è fisiologico perdere forza muscolare, non solo perdere forza ma perdere proprio fibre muscolari, il numero delle fibre muscolari nel soggetto che avanza con gli anni diminuisce. Allora pensiamo a quanti anziani ci sono nella nostra società e a quanti anziani ci saranno e saranno sempre di più nel futuro, e quindi una prevenzione a questa perdita di forza è fondamentale. Pensiamo alle cadute, noi dobbiamo prevenire soprattutto le cadute nell'anziano, e l'anziano quindi deve mantenere dei livelli di forza muscolare adeguati tali da permettergli di avere una deambulazione normale. Ricordiamo, e lo faremo più avanti, che è possibile allenare un muscolo anche a 90 anni. C'è un altro aspetto che vorrei toccare con voi ed è quello della riabilitazione. Dopo un incidente, uno strappo, una contrattura, una lesione al muscolo, si cerca di, insomma, ci si mette una toppa, non parlo naturalmente degli atleti, e si accontenta di recuperare qualcosa. Ma questo è un grosso rischio, dottor Gianni, perché si diminuisce progressivamente la potenzialità e la forza del nostro muscolo, è così? Difatti, allora, io vedo soprattutto in non atleti professionisti che generalmente si aspetta un po' di tempo perché passi la fase acuta, tipo di uno strappo, e lì si ha un po' di impazienza, però in genere si aspetta. Quello che nessuno riesce a capire e poi a mettere in atto è che una muscolatura che ha subito un danno, o direttamente o perché magari ha subito anche un danno non direttamente ma nell'articolazione interessata, sì, di conseguenza si ha sempre una caduta del tono muscolare e una riduzione del tono muscolare. Questo va ricostruito assolutamente. Non bisogna assolutamente ricominciare a correre senza aver fatto questo passaggio. Altrimenti la pena è che il muscolo rende meno, ma poi ci sono dei problemi cosiddetti da sovraccarico su quel muscolo lì, perché il muscolo, lo stesso carico di prima, il muscolo non lo sopporta più, per cui bisogna assolutamente, è un passaggio obbligato direi, perché altrimenti poi le persone vengono a lamentarsi di problemi che non sono più legati al fatto acuto, ma sono legati alle conseguenze di non aver recuperato questo tono muscolare. È fondamentale questo. Quindi, come avete potuto capire, una puntata aperta a tutti, a sportivi e a non, a chi si è strappato, si è fatto male, vuole recuperare, a chi vuole mantenere i muscoli sani e forti, perché i muscoli, oltre a essere belli da vedere, hanno anche delle funzioni importanti, possiamo capirlo tutte, perché ci portano in giro, ci proteggono, ci permettono di muoverci, ma sostengono soprattutto i muscoli. Pensiamo ai muscoli che in qualche modo ci proteggono dal mal di schiena, lavorare, come dice spesso il dottor Melegatti, sugli addominali. Insomma, di questo parleremo. Se volete intervenire, il nostro numero verde è come sempre a vostra disposizione, 824 0024, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. L'abbiamo accennato ieri in chiusura, torniamo a farlo oggi, abbiamo più tempo. È partita la campagna di informazione dell'Istituto Superiore di Sanità sul buon uso della fitoterapia, agopuntura, omeopatia, ayurveda, medicine, pratiche che sono di volta in volta definite complementari, naturali, dolci, alternative. Questa è un'iniziativa che ha l'obiettivo di informare e al tempo stesso educare il cittadino a utilizzare queste medicine in modo consapevole. In linea con noi il dottor Roberto Raschetti, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che è anche il coordinatore del gruppo di lavoro per la campagna. Dottore, grazie per essere con noi. Pronto. Buongiorno a lei. Dottore, innanzitutto diamo qualche numero. Quanti sono gli italiani che si curano con le medicine? Ne uso un termine, cioè un aggettivo a caso, alternative, ma potrei dire complementare, insomma, questo gruppo di medicine. Questo gruppo di medicine. Grosso modo, sulla base dei dati dell'indagine Istat che abbiamo fatto insieme all'Istat, intorno ai 2 milioni e mezzo ogni anno. Mm. Quindi una quota consistente della popolazione italiana che si rivolge a questo tipo di terapie. E sono in crescita? Nell'ultimo dato del Istat c'è una leggera crescita, però non così, forte, però è una situazione che in tutto il mondo occidentale si muove, con lo stesso ritmo, soprattutto nei paesi più sviluppati. Il problema, ed è la motivazione per cui noi abbiamo fatto e promosso questa campagna di consapevolezza, di sensibilizzazione, e che dietro il ricorso a questo tipo di terapie c'è molto il fai da te, quindi il ricorso a consigli di presunti esperti, il non controllo del medico, la problematica anche dell'accesso ad alcuni di questi prodotti attraverso internet, che non è necessariamente un canale sicuro, anzi insomma da questo punto di vista è un po' problematico, e da qui deriva proprio l'esigenza di fare un'informazione corretta, informazione che abbiamo studiato, curato sia con la Società Italiana di Farmacologia sia con il Centro Antiveleno di Milano, ma soprattutto con molte delle associazioni di medici e terapisti che ricorrono a questo tipo di terapie. Il messaggio è che naturale non significa necessariamente sicuro. Esattamente, perché una delle questioni che c'è dietro anche ad alcune aggettivazioni tipo le medicine dolci, naturali, c'è l'idea che in quanto naturale il prodotto o l'approccio sia necessariamente sicuro. E questo è un dottor Raschetti, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ci si trovano tutte le informazioni e i dettagli di questa campagna, ma per chi non avesse a disposizione internet, vogliamo dire qual è il vostro, quali sono i vostri consigli? Ma i consigli sono innanzitutto di rivolgersi sempre a un medico, cioè non abbandonare le terapie diciamo così usuali senza un consiglio del medico, non affidarsi al fai da te, dicevo prima, cioè a presunti ricercatori, esperti che consigliano un certo tipo di automedicazione. Di diffidare sostanzialmente da canali distributivi tipo quelli appunto di internet oppure delle vendite domiciliari, di consultare sempre e comunque un medico, un farmacista prima di decidere di assumere un prodotto di questo genere, e conservare questi prodotti, fare in modo che non ci siano quei prodotti fatti in casa, che in alcuni casi noi abbiamo visto producono anche danni notevoli, e sicuramente ricorrere a una maggiore confidenza col proprio medico, tant'è vero che le locandine che stiamo distribuendo ci auguriamo vengano esposte negli ambulatori dei medici di medicina generale, tanto per dirne una. Fresca fresca arriva dalla Gran Bretagna una notizia: la Gran Bretagna boccia l'omeopatia ritenuta priva di prova d'efficacia. È più un provvedimento di sanitario, però volevo capire da lei, che è coordinatore di questo gruppo di lavoro che quindi ci porta questa campagna, che cosa ne pensa. Dunque, questo è un documento molto corposo che è stato rilasciato il 22 febbraio scorso, quindi è recentissimo, del House of Commons, che ha una commissione di Science and Technology, che ha fatto una rivisitazione di tutto ciò che si ha a disposizione sull'omeopatia, ponendosi sostanzialmente una domanda: se sia lecito per il servizio sanitario inglese supportare questo tipo di terapia. Le conclusioni, adesso il documento, come dicevo, è molto articolato, sì, va letto con attenzione, studiato, analizzato. Le conclusioni sono non tanto un pregiudizio nei riguardi dell'omeopatia, quanto il fatto che allo stato attuale, secondo questa commissione, non ci sono evidenze cliniche scientificamente fondate che possano dimostrare che l'omeopatia sia qualcosa di più rispetto al placebo. L'altra conclusione che trae il documento è che la prescrizione di un placebo all'interno di un servizio sanitario nazionale sarebbe non etico, e da qui ne traggono le conclusioni che il servizio sanitario inglese non dovrebbe supportare questo tipo di terapia. Come diceva anche lei, questa più che una posizione diciamo così scientifica in senso di ricerca è una posizione di politica sanitaria. Dottor Raschetti, intanto io rimando gli ascoltatori di Essere Benessere al sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e intanto la saluto e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata. Salve. Se siete come lui, Magari se volete diventarlo, ma anche se siete l'antibraccio di ferro per antonomasia, oggi vi chiedo di sfoderare i vostri muscoli, perché è di loro che parliamo oggi. Ci occuperemo di muscoli scolpiti, di muscoli appena accennati, di muscoli che lavorano sodo, anche di muscoli che si lamentano per un nulla. Dottor Gianni, lei l'ha già anticipato, ci sono diversi tipi di muscoli, ha parlato di fibre. Quindi qualche cosa anche noi guardandoci vediamo che insomma ci sono muscoli, muscolini, muscoloni. Sì, bisogna distinguere bene. Ci sono dei muscoli che sono adatti per mantenere la nostra postura in modo corretto e questi si chiamano muscoli posturali. Poi ci sono invece che sono ad esempio dove li tocchiamo. Tutti gli addominali sono ad esempio dei muscoli posturali, i paravertebrali sono dei muscoli posturali, quelli che ci mantengono eretti. Quelli che ci mantengono eretti. Poi ci sono i muscoli invece che ci permettono di spostarsi, cioè che si contraggono e provocano proprio il movimento. Che differenza fondamentale ci sono fra questi due? Che gli uni sono i posturali, hanno un tono muscolare e cercano di mantenere questo tono sempre adeguato, perché la struttura del nostro organismo alla stazione eretta deve essere mantenuta quasi costantemente. Certo. Gli altri invece hanno una caratteristica che si contraggono nel momento in cui deve esserci un movimento. E il tipo di allenamento che si deve fare per gli uni e per gli altri è completamente diverso, e poi dopo si vedrà sicuramente come fare per allenare questi muscoli, soprattutto per tenerli tonici. Perché non dimentichiamo che però i muscoli posturali devono avere contemporaneamente una bella tonicità ma anche una elasticità adeguata, perché se fossero troppo tonici, e tutti lo sappiamo, il cervicale dipende anche dall'aumento e non corretto tono muscolare. E lei tocca infatti un tema molto caro al dottor Melegatti. Lei, dottor Melegatti, ha parlato di tensioni muscolari che generano poi dolore. Il dottor Gianni ha citato la cervicale, qua ci siamo, ci scivogliamo dentro. Dottore. Certo, allora per evitare queste situazioni naturalmente dobbiamo mantenere i nostri motori muscolari, perché così li ha definiti Enzio Gianni in maniera perfetta. Sono dei motori e vanno trattati bene, vanno revisionati, addirittura si può pensare che vadano anche sostituiti, pensiamo al trapianto cardiaco. Allora come fare per mantenere questi motori muscolari efficienti? Intanto bisogna mantenerli flessibili, devono essere dei motori non molto rigidi, e quindi lo stretching è fondamentale, l'allungamento, le metodiche di stretching, che sono metodiche che ciascuno può imparare e fare in maniera efficace. Rinforzarli, mantenere un tono muscolare adeguato, e anche qui è molto semplice, non bisogna passare la vita in palestra, bastano esercizi anche semplici fatti a casa, ma con giudizio, vale a dire con dei consigli adeguati. Abbiamo parlato di muscoli tonici, muscoli che ci permettono di sostenere il tronco, penso al mal di schiena, penso ai muscoli che servono per esempio per il mal di schiena, che sono la muscolatura addominale, quindi tutta la barriera anteriore e i muscoli posteriori, anche i muscoli paravertebrali. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale: il nostro corpo è sostenuto da più che da singoli muscoli, da muscoli che si mettono insieme a formare delle catene muscolari, e quindi c'è una continuità di azione tra i muscoli. Mi spiego: se abbiamo un problema distante dal tratto lombare, questo problema distante dal tratto lombare può influenzare negativamente i muscoli del tratto lombare. Quindi, e siamo rovinati. E quindi dobbiamo lavorare in maniera globale. E a proposito di lavoro in modo globale, naturalmente con gradualità, abbiamo in linea con noi il dottor Confalonieri. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Come poteva mancare, dottor Confalonieri? Dottore, ho fatto e non ho visto nulla. Ci sono delle persone che già mi scrivono, lavoro sui muscoli addominali, ma la pancetta non va via, ho le spalle che mi sembrano di burro, non ho forza nelle braccia. Siamo tornati, oggi parliamo di muscoli. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, il dottor Gianni ci ha spiegato che i muscoli sono diversi. Mi chiedo, nel caso si volesse scolpirli un po', modellarli, insomma tenerli su, quali esercizi si devono fare? Insomma, ad ogni muscolo c'è per ogni muscolo un esercizio specifico o basta muoversi? In linea di massima direi che bisogna trattarli ognuno in un modo diverso. La distinzione fondamentale l'ha fatta molto bene il dottor Gianni tra muscolatura posturale e muscolatura fasica, quella che serve appunto per muoverci. Diciamo che indipendentemente dalle caratteristiche genetiche, perché poi c'è gente più predisposta a sviluppare massa muscolare, gente meno predisposta in base ai geni, i muscoli che possiamo, su cui possiamo lavorare in modo efficace con l'obiettivo di incrementarne il volume sono i muscoli fasici, quindi i muscoli delle gambe, i muscoli delle braccia, in parte pettorale grandorsale, mentre qualsiasi sforzo sulla muscolatura posturale tipica, penso agli addominali, penso ai paravertebrali, non è destinato ad avere grossi successi. Allora è inutile. No, non è inutile, anzi è fondamentale farlo, ma non tanto in funzione di un aumento di volume. E anche il tipo di lavoro è un po' diverso. Se noi vogliamo aumentare il volume, è ideale lavorare con contrazioni molto lente e con carichi intorno al 70-80% del nostro massimale. Viceversa, se lavoriamo sulla muscolatura posturale, è meglio fare molte ripetizioni relativamente rapide con carichi intorno al 40-50% massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo capito tutti, secondo lei, dottor Confalonieri? Perché lei non mi vede in faccia. Lei è stato molto tecnico. Nella pratica, proprio per chi volesse tradurre in esercizio quanto lei ci ha detto? Ma io credo che abbiano capito quasi tutti. Comunque, se noi diciamo... L'unica che non ho capito sono io, perché no, non sono una grande frequentatrice di palestre. Però nella pratica cosa vuol dire? Se noi riusciamo, poniamo col quadricipite femorale, col muscolo della coscia, a sollevare al massimo 100 kg in modo corretto ed adeguato, dovremo impostare delle serie da 8-10 ripetizioni su 70-80 kg, che corrispondono appunto al 70% di 100. Viceversa, se agli addominali noi riusciamo a sollevare al massimo 40 kg, lavoreremo con serie da 15-20 ripetizioni da circa 20 kg eseguite con una certa velocità. Adesso sì che ha capito anche Fabio Cantadori, quindi siamo a posto. Noi possiamo partire, invece noi, dottor Confalonieri, ci sentiamo, anzi ci vediamo venerdì. Perfetto, per una puntata tutta dedicata allo sport, al femminile, sport in rosa, così anticipi. Ci lanciamo, dottor Confalonieri. Sì. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Abbiamo Lina da Trento, buongiorno. Buongiorno. Lina, lei aveva capito tutte le fasi, dica la verità. Guardi, più o meno come lei. Allora. Ecco, vabbè, dai che siamo in due. Bene, no, però adesso poi abbiamo capito. Mi sembra molto pesante il fatto di quel sollevamento che ha detto il 70-80%, però... Siamo più magari da poltroncina. Lina, lei che cosa fa? Io adesso sono in pensione, facevo l'infermiera. Sì. E sono a casa e mi piace molto camminare, cammino un'ora al giorno, un'ora e mezza. E il mio punto debole però sono i muscoli del collo. Ecco, e per cui non so bene quale tipo di ginnastica, quale... Dottor Melegatti, allora, il collo è il tallone d'Achille di molti di noi, sì, perché le tensioni si accumulano tutte lì. Che cosa si fa? Allora, intanto bisogna agire magari... non in maniera specifica a livello dei muscoli del collo, ma capire perché ci sono queste tensioni, e una volta risolte tensioni estranee alla muscolatura, concentriamoci sul collo. Il collo va mantenuto mobile e flessibile, quindi semplicissimi esercizi di rotazione del collo, del capo, e o di flesso estensione del capo, cioè e poi, si fa sì e no, sì e no, oppure quando si disegna un cerchio con il naso, vero? L'importante è fare dei movimenti molto cauti, molto lenti, ma continui, ripetuti anche ogni giorno. Non bisogna forzare questi movimenti, non bisogna sentire dolore durante questi movimenti, e poi ci sono anche degli esercizi per mantenere la muscolatura del collo tonica, e si chiamano esercizi isometrici. Sono semplici, basta appoggiare per esempio il palmo della propria mano sulla fronte, sì, e spingere contro il palmo della mano contando fino al 5. Poi portare la mano alla nuca e spingere la nuca verso il palmo della mano all'indietro, sempre contando fino a 5, avendo l'accortezza di non muovere il capo. Il capo non si deve muovere, perché la resistenza della mano deve essere più forte del movimento, e così via, quindi direzione in avanti, indietro, destra e sinistra. Questi sono semplici esercizi che, se ripetuti ogni giorno, mantengono una muscolatura del collo tonica. Lei è un mago, io stavo provando, già mi sento tutto un dolorino che si scioglie. Vai. Allora abbiamo Giulio che ci chiama da Brescia. Buongiorno a lei, Giulio. Buongiorno a lei. Sai che questi esercizietti del collo sono magnifici? Le stavo proprio provando anch'io. Anche lei, anch'io, mi sono... Vede, fantastico. Allora, Giulio, ci racconti. Allora, io amo correre. Sì, un maratoneta. Sì, infatti fra 15 giorni avrei una mezza maratona da fare. Mm. Però nella corsa della domenica, cioè il classico lungo, mi accorgo intorno al 13esimo, 14esimo, 15esimo chilometro proprio di avere un crollo. Crollo, non riesco più a correre. È dovuto forse a un sovrallenamento, può essere un'alimentazione non corretta. Giulio, sei già fatto tutte le domande, bravo Giulio. Dottor Gianni, che cosa sbaglia Giulio? Che cosa sbaglia adesso fare una diagnosi così? Sì, anche perché il dottor Melegatti ci ha dato già quell'esercizio, lei deve subito recuperare. Lui ci ha dato un esercizio per il collo magnifico. Se durante viene meno, probabilmente viene meno il carburante, probabilmente viene meno la benzina. Allora, ci sono due modi per provvedere a questo deficit, a questo inghippo, diciamo. L'uno è comunque bisogna mangiare qualche cosa prima di andare a correre, però bisogna stare attenti, non si può mangiare nell'immediato e riempirsi lo stomaco, perché potrebbe succedere l'effetto opposto, e cioè se noi mangiamo e teniamo lo stomaco ripieno, i muscoli che generalmente hanno bisogno di molto sangue per avere dell'ossigeno in più, rubano questo sangue allo stomaco e al tubo digerente, per cui non permettono di digerire a sufficienza. La regola è che bisognerebbe mangiare almeno un 3 ore prima, almeno 2 ore, 2 ore e mezza ci stanno tutte, 3 ore proprio. Spesse volte le persone vanno a correre al mattino, e quindi se cominciano a correre alle 7 dovrebbero alzarsi. In questo caso qui è logico che devono avere una precauzione di mangiare delle cose molto leggere e digeribili molto in fretta. Attualmente fanno dei preparati a modi di polvere, a modi di preparati già dalle ditte farmaceutiche, con delle miscele di zuccheri, sali minerali, soprattutto zuccheri, in modo tale che non si vada incontro a questa situazione. Energia di pronto utilizzo, insomma. Energia di pronto utilizzo. Le barrette sono molto utili in questi casi, che sono abbastanza ben tollerate, digeribili e di buon sapore. E lei dice che Giulio, in questo fatidico momento della maratona, potrebbe essere... Potrebbe non essere questo anche. Potrebbe non essere. Potrebbe anche essere, semplicemente anche potrebbe essere molto importante un discorso di diverso tipo di allenamento. Può essere che lui si alleni in un certo modo e poi non abbia la forza per continuare ancora nel proseguo dell'allenamento. In che senso? Se una persona si allena per resistere mezz'ora e poi dopo corre molto di più, è chiaro che lui non pensa che faccia questo errore, perché se uno che prepara le maratone, certo. non succede assolutamente. Però potrebbe essere che magari corra ad una velocità che per lui non è adeguata, cioè corra di più con una cadenza che le fa bruciare molto, molto zucchero, e le fa bruciare tutto lo zucchero, quasi tutto lo zucchero in breve tempo, per cui lui va in acidosi, cioè accumula acido quindi lattico. Consiglio, rivedere la dieta prima. Bisogna rivedere un attimino la dieta e poi cambiare il passo praticamente. Un'altra cosa è importantissimo, che la cena del giorno prima, se uno si allena al mattino, debba essere adeguatamente corretta, cioè debba contenere comunque una certa quantità di carboidrati, perché altrimenti di zuccheri, quindi per essere pratici, di amidi, di pasta o di pane, così, perché altrimenti non ce l'abbiamo. Già durante la notte l'organismo consuma quasi tutto il glicogeno che ha nei muscoli, per cui bisogna assolutamente darglielo al giorno prima. Un po' di sprint. Allora, sarà perché i muscoli sono freddi, sarà perché pretendiamo da loro, facciamo un movimento sbagliato, dottor Melegatti, e sentiamo un dolore fortissimo. E diciamo, mi sono stirato, mi sono strappato, una contrattura. Noi questi tre termini li mettiamo, li usiamo come sinonimi, in realtà voi fate delle differenze, no? Delle precisazioni. Sì. Vogliamo allora capire che cosa si nasconde dietro a ciascuno di questi termini? Certo. Dobbiamo dire innanzitutto che c'è un dolore muscolare che proviene dalla lesione muscolare acuta, vale a dire uno sta correndo e improvvisamente sente una fitta di dolore posteriormente alla coscia, quello probabilmente è una lesione muscolare, cioè il muscolo che è andato oltre le sue capacità di sopportazione il carico in quel momento e quindi le fibre muscolari si lacerano e si provoca una lesione che può essere una lesione banale, un allungamento, oppure una lesione di poche fibre, oppure una lesione di quasi tutto il muscolo. Però c'è il dolore che proviene anche da altre situazioni, per esempio il dolore dei crampi. Il crampo è una situazione ancora non ben conosciuta, però molto molto comune, che può essere ricondotta a una mancanza d'acqua, per esempio situazioni di scarsa idratazione in attività sportivo-ricreative nei momenti caldi della giornata, oppure carenza elettrolitica, mancanza di elettroliti. Poi c'è il dolore legato all'accumulo di acido lattico. In effetti esiste un dolore da acido lattico, ma non è il dolore che si sviluppa immediatamente, cioè i giorni seguenti. Il dolore da acido lattico è più che altro una sensazione di, come dicono gli anglosassoni, soreness, di pesantezza delle gambe, ma che si risolve in poche ore. Il dolore invece che molto spesso le persone accusano il giorno dopo o due giorni dopo uno sforzo è un dolore legato allo stress delle fibre muscolari e della componente connettivale del muscolo, quindi una sorta di stretching e di allungamento eccessivo o di infiammazione del muscolo che è andato oltre. Insomma, li abbiamo fatti lavorare troppo e si irritano, come esatto, se fossero delle persone, direbbero adesso è troppo. Guarda, cosa si fa? Allora, in base a tutto quello che alle varie situazioni, naturalmente c'è un rimedio. Nella situazione di lesione muscolare bisogna essere molto tempestivi, riconoscerla, fermarsi, effettuare un bendaggio compressivo e applicare del ghiaccio, per esempio, per rallentare lo stravaso emorragico, vale a dire la perdita ematica che si verifica sempre in situazioni di lesioni muscolari, perché i muscoli sono riccamente infatti poi molto spesso c'è il livido, il livido, l'ematoma, eccetera. Sì. Questa è un'evenienza molto importante da trattare, perché se maltrattata o non trattata si possono formare strascichi molto fastidiosi soprattutto per gli atleti, vale a dire le ossificazioni di questo ematoma, ad esempio. Questo per quanto riguarda la lesione, ma per quanto riguarda il crampo, per esempio, bene, cercare di capire perché è arrivato questo crampo, fermarsi comunque dall'attività, reintegrare i liquidi, bere molto, ma bisognerebbe prevenire, quindi bere sempre ben prima dell'attività e non solamente dopo, e ricordare che quando uno avverte lo stimolo della sete è già tardi. Dottor Gianni, noi abbiamo detto che ci saremmo occupati anche del dolore da acido lattico, che il dottor Melegatti ci ha spiegato non è quello che avvertiamo il giorno dopo, ma dovrebbe essere quel dolore che segue subito lo sforzo fisico. Io vorrei andare anche al giorno dopo, al dopo allenamento, perché siamo sempre preoccupati di curare la dieta prima della prestazione sportiva e poi una volta che è fatta, mangio quello che voglio. Invece è importante sapere alcune cose. Sì, noi adesso siamo saltati da... non abbiamo ancora parlato di come nutrire bene questi muscoli e andiamo... però, vabbè, anticipiamo un attimo come bisogna fare dopo, così capiremo anche qual è che bisogna fare. Facciamo il prima e il dopo. Facciamo il prima e il dopo. Allora, noi i muscoli abbiamo detto che hanno una struttura. Sì. Questa struttura sono essenzialmente delle proteine. E come tale noi per mantenere queste proteine dobbiamo mangiare una struttura adeguata, cioè dobbiamo mangiare un adeguato apporto di proteine. Poi, una volta che noi abbiamo mantenuto queste proteine... Quanto vuol dire adeguata? Adeguata vuol dire generalmente per un atleta può essere da un grammo a un grammo e due pro chilo. Se un atleta pesa 70 kg sono circa 70 grammi di proteine, sì. Tenendo presente che un etto di carne sono 20 grammi di proteine. Sì. per una persona normale sono in genere 0,80, 0,90, ecco. Generalmente si dice in genere non si deve superare 2 grammi di proteine, però 2 grammi sono, insomma, tanti. è già un bel apporto. Una volta che queste strutture proteiche sono mantenute adeguate, allora noi possiamo nutrire, dare cioè del carburante alla nostra struttura, cioè quando noi abbiamo il motore che è adeguatamente mantenuto in perfetto ordine, allora possiamo dare del carburante. Noi abbiamo la fortuna, il nostro organismo ha la fortuna che può bruciare diversi carburanti. È un po' onnivoro. La tecnica ci sta arrivando un pochino adesso, che fa bruciare il gasolio, fa bruciare il gas naturale così, e l'organismo c'era arrivato molto prima. L'organismo è in grado di bruciare lo zucchero, è in grado di bruciare gli acidi grassi, è in grado di utilizzare, non proprio bruciare direttamente, ma utilizzare anche gli aminoacidi trasformandoli in zuccheri. Ecco, tutto questo è adeguato e bisogna provvedere prima, mangiando un carico di zuccheri prima, ma soprattutto dopo, perché dopo noi abbiamo consumato tutto il glicogeno, tutto il nostro carburante, bisogna costituirlo. Quindi bisogna mangiare un adeguato apporto di amido e quindi di pasta, di pane, così. E ancora un consiglio: non bisogna andare a sovraccaricare l'acido lattico ancora, perché noi ce l'abbiamo già. Ad esempio, chi utilizza e generalmente si permette sempre dopo la partita di bere una birra, di bere un po' d'alcol, così, questo è estremamente negativo perché compete direttamente con lo smaltimento dell'acido lattico. Quindi attenzione, è difficile dopo una partita di calcetto che sia perché hanno vinto o perso, non si vada a mangiare una certo. pizza con una buona birra, però noi li abbiamo avvertiti. Però il consiglio l'abbiamo dato. Allora, vogliamo recuperare tutte queste notizie, indicazioni, suggerimenti che abbiamo dato, fare una sorta di vademecum o decalogo, non so se arriviamo a 10 punti per i nostri muscoli, dottor certo. Melegatti. Allora direi, come ha detto in maniera molto corretta Ezio Giani, l'alimentazione deve essere corretta, deve tenere conto delle esigenze dei nostri muscoli, dipendentemente dal tipo di utilizzo, dal tipo di attività sportiva. Non dimentichiamoci dell'idratazione, è altrettanto importante idratarsi e non arrivare ad assentire lo stimolo della sete, ma prevenire tutto questo. Gli esercizi devono essere degli esercizi di riattivazione per chi è fermo da parecchio tempo, o di tonificazione, di mantenimento per chi invece ha una certa attività sportiva. Non dimentichiamoci, a fianco all'esercizio di rinforzo, anche l'esercizio di stretching, di allungamento, perché è fondamentale mantenere muscoli non solo tonici e forti, ma anche flessibili. E poi non dimenticare quello che aveva detto Ezio all'inizio: recuperare in maniera completa dagli infortuni. E questo che io vorrei spendere l'ultimo minuto di trasmissione proprio a questo concetto, dottor Giani. Molti dei nostri ascoltatori sono sportivi amatoriali, molti di loro si strappano, ma chi non fa, no? Le cose capitano a chi fa. Chi si sta seduto in poltrona rischia sicuramente di meno, ma voi ci avete detto attenzione, perché se non recuperate bene rischiate di progressivamente avere dei muscoli che funzionano sempre meno, quindi rendono sempre meno. Allora, il consiglio per queste persone che magari non sono seguite da un medico esperto, no? Corrono con gli amici, vanno a fare la partita, che cosa devono fare per recuperare completamente? Il riposo? Basta questo? Il riposo è la prima fase per far passare la fase acuta dell'infortunio, ma poi assolutamente bisogna riprendere l'attività in questo senso. Non correre, facciamo un esempio, una persona che correva prima, si è strappato, sì. Non deve aspettare di guarire, come ha detto giustamente Gianluca, poi deve, per prima di ricominciare a correre, deve ricostruire la sua forza muscolare, deve riportarla allo stesso stadio di prima, e quindi fare degli esercizi che possono essere in scala, cioè in ordine, incominciare con degli esercizi isometrici. Poi incominciare, come diceva prima, isometrici. Quindi isometrici vuol dire contrarre il muscolo senza muovere l'articolazione. Quello che Gianluca diceva prima, spiegava con la testa, questa di testa che mi è spingere, piaciuta molto. Ecco, senza muovere la testa. Questo si può farlo anche sui muscoli in secondo luogo. Man mano si può caricare con dei carichi, delle resistenze, non al 70 o l'80% come spiegava il dottor gonfalonieri, sì, ma bensì con dei carichi progressivi, in modo tale da arrivare allo stesso volume e forza del, facciamo un esempio, del controlaterale, che è il muscolo di riferimento. Certo, e quindi con tutte queste avvertenze, precauzioni e attenzioni, i nostri muscoli staranno belli, tonici, fino a non mettiamo limite alla Divina Provvidenza. Non mettiamo limite. Vero? Ricordiamo sempre che è importante tutto questo per evitare il nuovo infortunio. Allora, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani, mi raccomando, in forma, e noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Intanto buona giornata.